Conta i rimbalzi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'è, quante erano? Non lo so. Capa, sai, tu dovresti trovare il modo di festeggiare anche il mercoledì, perché tanto ormai lo so che il tuo fine ultimo è quello di festeggiare ogni giorno della settimana con una scusa, hai capito? Sì, lo so, ma il mercoledì non è un giorno positivo, nemmeno un giorno negativo, se vuoi. Cioè, e cos'è? Niente. Come niente? Niente, mercoledì. No, anche nelle canzoni, se ci pensi, non è mai celebrato. Come no? Wednesday, non c'è Wednesday. Ma no, ma c'è Ruby Tuesday dei Rolling Stones, sì. I Don't Like Mondays dei Boomtown Rats. Sì. Sunday Morning dei Velvet Underground. Sì. C'è Friday I'm in love dei Cure. Sì, su Friday. Thursday Child di David Bowie. Sì. C'è Saturday Night Fever, che è un film intero, un doppio album, adesso anche un musical, tutto sul sabato. Tutto sul sabato. Sul mercoledì, oh, non c'è niente. Ma sei sicuro? Ma dai, figurati se non esistono canzoni dedicate. Non ci sono canzoni sul mercoledì. Wednesday. No, c'è l'attacco di, non so, di She's Leaving Home dei Beatles. Sì. Wednesday morning at 5 o'clock. Ah, però la canzone Wednesday si chiama at 5 o'clock. Sai che c'è forse Simon & Garfunkel, Wednesday morning 3 a.m. Sì, mi pare una canzone tipo canzone degli alpini fatta da, fatta da sì, con quelle armonie vocali un po' da alpini. Wednesday morning 3 a.m. cioè sì. Ma vabbè, ma mercoledì mattina alle 3 è come dire martedì notte, ma no? In che senso? Se sono le 3 del mattino di mercoledì, sì, ma sono le 3 di notte del martedì. Oddio, Drago, non è proprio la stessa cosa, non è precisa una. Ma delle per uno due. Che non è ancora andato a dormire è martedì. No? Che scrive la canzone di notte del martedì. Per uno che si alza a quell'ora tipo e va a spalare un fango è mercoledì. Ah sì, perché devi solo il fango se ti alzi con l'ora lì alle 3 del mattino, cosa fai? Il pane. Vabbè, il quindi fango. Il concetto di data è così relativo, non lo sapevo. Se tu vai a denunciare qualcosa, allora, diciamo che Simon e Garfunkel hanno salvato il mercoledì per un pelo, salvato dall'oblio che merita il mercoledì. A me il mercoledì, guarda, a me piaceva negli anni 80 perché c'erano tutte le coppe europee, la UEFA, la Coppa Coppe, la Coppa dei Campioni, che si giocavano di mercoledì dalle 2 del pomeriggio alle 11 di sera davanti alla TV. Bravo, guarda come sei diventato. Lo so, ma ormai. Vabbè, dai, dove sono gli alpini, Drago? Ma adesso lo senti dove sono gli alpini? No, sono bravi, niente di male. Poi Paul Simon, l'altro. I can hear the soft breathing of the girl that I love. Dai, lo senti, sembra proprio il capitano. Il capitano della compagnia. Basta. Questa quindi è Wednesday morning, 3 a.m. Sì, ma dove lo dice Wednesday morning? Wednesday, ma almeno. Sai che secondo me in tutto il testo non lo dice nemmeno una volta. Cioè, fa una specie di descrizione di questa mattina che però insomma, potrebbe essere una mattina qualunque, se non era nel titolo. Potrebbe essere martedì, ma io te l'ho detto, forse non è martedì. Martedì notte, forse, sì. Ma come, la mattina di martedì notte? È uguale. Ma come, la c'è mattina? Un punto di contatto, capito, tra c'è roba, buio, c'è la colazione col caffè, cambia quello, no? E quindi, questo è martedì o mercoledì? Chiedo asilo. Papà, guarda che sveglia. Cosa c'è? Sveglia, siamo in trasmissione. Va bene che dormi due ore, un'ora a notte ormai. Un'ora. Questi casini. Anche Napoleone, vocal coach, un'ora. Donne, rapper con la barba. Sì. Ma oggi non è un mercoledì qualunque, oggi è il 31 ottobre. Esatto, giusto, domani è festa, quindi festa. È prefestivo, quindi è come un venerdì, giusto? Oh, bravo! Vabbè, vorrei dire che negli uffici stanno già pregustandosi il ponte che faranno su questo weekend lungo. E ci puoi giurare. Anzi, forse la canzone più adatta a questo mercoledì era sempre di Simon & Garfunkel, ma non era Wednesday morning 3 a.m., ma Bridge over Troubled Water. Ma vabbè, per via del ponte. Water, certo, The Bridge. Ma sai che non ho mai capito il titolo del pezzo, cioè ponte sul tribolato Waters. Cioè, si riferisce forse a Roger Waters dei Pink Floyd, che è sempre in paranoia. Tito, no, più forte, mordilo lì. Non è solo un prefestivo oggi, oggi è anche la vigilia di Halloween. Ah già. Come già? Non te lo ricordavi? Ma no, sai, Halloween. Non sono molto. Molto non cosa? Non so come dire, cioè, le feste, le ricorrenze. Poi lasciamo perdere Halloween, che proprio non l'ho mai festeggiato in vita mia. Però, se vuoi, recito le poesie, anzi la poesia Allerseelen di Georg Trakl, che è in tema. Allerseelen è il giorno dei morti. Quindi, allora, attacchiamo con la poesia. Allora, musichetta triste da giorno dei morti. Poesia, Georg Trakl, Allerseelen. Sì, abbiamo capito. Già dirlo ogni tanto. Allora, omini, donnette, triste compagnia, spargono oggi fiori azzurri e rossi sulle loro tombe, che incerte si rischiarano, come miseri fantocci si muovono davanti alla morte. È morto. Però no, dai. Cosa, dai? Scusa, Truck, ma meglio la festa di Halloween in discoteca con le zucche finte, le streghe. Tu. Ma dai, se no qui con le tombe, i fantocci, la morte. Mancano 51 giorni alla fine del mondo. Beh, sta soffrendo, si avvicina. Si avvicina, vabbè, Drago, siamo, si avvicina. Siamo in tema, giorno dei morti, fine del mondo, più come, o meno. Vabbè, però si avvicina, ma con calma, mancano ancora. Ma vabbè. 51, erano giorni. 100, adesso sono quasi la metà. Bene, no? Va bene, bene cosa? Bene, se non credi alla profezia, mai, ma se ci credi, allora dovresti essere disperato, perché se ci credi. Ma Drago, ma lo sai quanto sono 51 giorni? Un mese, tre settimane. Appunto, appunto, è poco. Ma dipende, no? Sì, ma tanto dovremmo venire all'asilo tutti i giorni, da qui alla fine del mondo, e dunque anche se 51 giorni fossero tanti, tantissimi, chi se ne frega, visto che non possiamo partire, dare in vacanza da qui a dicembre, fare quindi? Quindi che ne so, mi sono intorcinato sull'argomento. Non si vede, anzi si sente. Vabbè, buon Halloween a tutti. Sì, ma tanto noi domani siamo qui, il prefestivo vale solo per quelli degli uffici, mica per noi, Sì, vabbè, Drago, intanto tu vieni con me che ti porto in un bel posto. Ah, andiamo. Adesso vedi, è Halloween, ti porto in un bel posto. Vieni, di qua, vedi che dietro qua tu non hai mai visto che dietro qua. Cosa? Fa paura, eh? Ma dove mi hai portato, Kappa? In un cimitero, è Halloween. Ma i cimiteri, Kappa, portano sfiga. Ma che sfiga, dai, Drago, questa è la notte delle streghe. Il cimitero è il posto perfetto per evocare gli spiriti, no? Shh, shh, cosa? Shh, ho sentito qualcosa. Dove? Hai paura, eh? Senti, Kappa, a me queste cose non piacciono. I morti bisogna rispettarli, chiaro? E poi Halloween, cos'è Halloween? È una roba americana. Io preferisco le tradizioni nostre, italiane. Cioè? Il weekend lungo, i crisantemi, le costine coi ceci. Ma quali ceci? Dalle mie parti il giorno dei morti si mangiano i ceci. Hai sentito? No. Ma cos'è? Ma che puzza! Scusa, mi è scappata. Ma Drago! Hai mangiato i ceci. Roman Catholics. Halloween, Halloween, what a bullshit Halloween. Pumpkins, slaughters, fun for Calvinists. Fun for noisy kids. Here in Italy, there's no trick, no trick, and no treat, no treat. We just bring some flowers on granddaddy's slovenly grave. Then in silence we pray. The whole family cries by the cemetery stones. Grief is important. Let's go to the restaurant. The fact is that you gotta meet your cousin Franco, whom you haven't seen for 15 years, or your aunt Carmela, who believes you're still a kid. And you have to talk to them and pretend you're interested in their lives. And all this family parade, we call it All Saints, but not in the sense of the All Saints, the girl band of the 90s, those who used to sing a song about a black hole. Never ever have I ever felt so low. When you're gonna take me out of this black hole? Never ever have you ever felt so low. When I'm gonna take you down in that black hole, ho, ho. Never ever have you ever felt so sad. The way you're feeling, yeah, I got you feeling really dead. Shh, hai sentito? Cosa? Sei stato tu? Ma cosa? Ma hai sentito quel rumore? Quale rumore? Quel rumore, un rumore tipo... Tipo... E allora sì che l'ho sentito.